Storiacce di Raffaella Calandra. Corri papà, è acido. Ma corri papà, corri, entra nella barca. Uno strano incontro poco prima di Capodanno con un fantomatico corriere, un improvviso gavettone e ben presto la consapevolezza che quel liquido che l'aveva investito non era affatto acqua. Pietro Barbini, come sentite dalla sua stessa voce, si rese conto subito che addosso gli era stato lanciato dell'acido, acido che gli avrebbe corroso il viso e stravolto la vita, come era già successo a Lucia Annibali, l'avvocatessa di Pesaro fatta aggredire dal suo ex, come è capitato ad un'altra donna incinta, come si è ripetuto molte altre volte, e come subiscono le donne delle famiglie 'ndranghetiste in Calabria quando tradiscono il proprio uomo. Storie di vittime dell'acido, storie alimentate anche da un rischio emulazione. Da via Giulio Carcano a Milano, dalla strada dove il 28 dicembre è stato aggredito Pietro Barbini, parte allora questa puntata di Storiacce. Il Tribunale di Milano in composizione collegiale dichiara Levato Martina e Boecher Alexander David Giulio colpevoli del reato loro in concorso ascritto, esclusa l'aggravante della crudeltà ed operata la riduzione per il rito, li condanna alla pena di anni 14 di reclusione ciascuno. C'è solo Alexander Boecher in aula mentre la corte pronuncia la sentenza e resta in silenzio dentro la gabbia mentre sente la condanna a 14 anni per lui e Martina Levato. Delitti seriali concepiti in un rapporto di dipendenza tra i due fidanzati, delitti mossi da quali motivazioni, perché più volte Alexander e Martina hanno usato l'acido come arma. Pietro Barbini, 22 anni, ancora oggi non sa darsi una spiegazione e l'incredulità si mescola al sollievo per un verdetto considerato giusto, come riporta il suo difensore Paolo Tosoni. Diciamo un sollievo da parte di Pietro nel vedere che è stata riconosciuta sia la gravità della situazione sia la sofferenza sua. Diciamo che un certo timore che questa vicenda fosse un po' sottovalutata e nel giro di poco tempo, pochi anni, questi due signori fossero liberi era una cosa che un po' lo angosciava. Mi diceva, non riesco a capacitarmi del come Martina, per come l'ho conosciuta io, avrei potuto fare una cosa di questo tipo. Tant'è che la spiegazione che lui dava è che fosse plagiata da quest'uomo. Questo fatto non è emerso, nel senso che le perizie non parlano di plagio, eccetera, però si parla anche di tratto all'interno della perizia di Martina, di masochismo e sottomissione, comunque di dipendenza, così come viceversa si parla di tratti di narcisismo, sadismo e manipolazione da parte sua. Questo ragazzo non ha mai nutrito sentimenti di odio e di vendetta nei confronti di questi signori. Che cosa significa adesso il nuovo status di Pietro? Allora, nonostante lui abbia subito 14 interventi, nei prossimi due anni subirà probabilmente anche di più per tentare di ridare un minimo di dignità a questo volto che in questo momento è un volto molto deturpato. Dal punto di vista psicologico è molto faticoso accettare un volto diverso dal proprio, ma soprattutto un volto deturpato, perché incide proprio sull'identità, sul sentimento di sé della persona, sulla coscienza di sé, anche sulla sicurezza, tant'è che lui fino ad oggi ancora non è uscito a Milano. Probabilmente questa cosa cambierà anche il suo futuro. Lui faceva questa università a Boston, lui oggi come oggi dice: beh, io non so più se voglio lavorare col pubblico, me ne sto in un ufficio oppure mi dedico a masterizzazione della musica del mio hobby, per me non mi vede nessuno. Questo oggi è il suo sentimento, quindi voi capite bene che razza di stravolgimento porta la vita di un ragazzo. C'è una nuova esistenza da ricostruire in chi viene sfigurato. Lo sanno le donne indiane, ripetutamente sfregiate con l'acido. Lo sa Lucia Annibali, l'avvocatessa che il suo ex ha voluto punire dopo la rottura della loro relazione. Lui ora è svanito nel buio di una condanna a 20 anni. Lei, con forza e determinazione, si è ricostruita invece una vita e una faccia. È appunto incredibile pensare come da una cosa così drammatica, una tragedia, no? Poteva davvero appunto annientarmi, eliminare qualunque cosa di me. In realtà si è ribaltato tutto completamente, la mia esistenza, la mia vita. E questo è una cosa veramente che così ti lascia stupito. Poi quello che io ho vissuto mi aiuta sempre, ogni giorno, a dare il giusto peso a qualunque cosa. Quindi in una situazione del genere ti trovi davvero di fronte alla morte, no? Cioè alla morte lì di fianco a te. E allora è in quel momento che devi decidere se vai dalla parte della morte oppure se scegli la vita. Quello è il momento più drammatico, in quell'istante, no? Perché devi decidere se vuoi reagire, che cosa vuoi fare in quel momento di te, di quello che ti è capitato. E io ho deciso che non volevo restare lì su quel pianerottolo, ma volevo assolutamente salvarmi. Mi sento più bella, mi rendo conto che può sembrare un paradosso, perché sono un po' storta, insomma, ancora vabbè. Però una bellezza, cioè essere forti di se stessi, essere orgogliosi di se stessi, essere pienamente se stessi sempre, in ogni momento, nonostante non si è perfetti, nonostante c'è qualcosa che non va, penso che renda bella una persona, cioè ti dona quella serenità, quella pace con te stessa che ti fa vivere bene con gli altri, e credo che questo aiuti anche gli altri forse a superare quello che vedono, cioè andare oltre, perché questo è quello che ho adesso, ci sto lavorando, migliorerà, cambierà, perché a mio avviso cambia sempre, cambia ogni giorno, ogni settimana, però quella che io sono dentro è quello che davvero viene fuori. E questa grinta Lucia Nibali ha voluto trasmetterla anche a Pietro Barbini, che ancora oggi non ha invece il coraggio di uscire di casa e ha voluto incontrarlo, come racconta a Storiacce il difensore Paolo Tosone. Si è svolto in modo riservato, però si può dire, la Nibali è stata a trovare Pietro, quindi loro si sono incontrati, hanno parlato, lei ovviamente gli ha raccontato di sé, ha cercato di sostenerlo, di farle capire, di fargli capire che nel tempo è possibile riprendere una vita normale come ha fatto lei. È stato un incontro, per come mi hanno riferito i genitori, molto utile, molto apprezzato da Pietro, non escludo che possa non essercene ancora. Ecco, quindi è stata proprio la Nibali a voler in qualche modo trasmettergli questo messaggio di fiducia. Esatto. Questo nuovo processo che si apre riguarda altri casi di cui sono accusati gli stessi imputati e condannati per l'aggressione a Pietro. Che cosa significa per voi? Beh, intanto noi saremo presenti, perché uno riguarda il Magnani, che riguarda ancora Pietro. Rappresenta il fatto che purtroppo questo non è un fatto isolato, e quindi che la condotta, a maggior ragione, di questi ragazzi è molto più grave di un fatto isolato. Come adesso io non voglio fare dei grandi paragoni, però Pietro, per citare l'esempio fatto, la vicenda della Nibali perlomeno c'era una storia affettiva finita male, con grandi fatiche e, se vuole, tra virgolette, un movente sproporzionato rispetto ovviamente alle condotte, però c'era. Qui la cosa assurda è che questi quattro episodi collegati tra di loro sono collegati da un movente veramente incredibile, e quindi la condotta è particolarmente grave, i danni causati a più persone sono molto gravi, quindi io credo che, anche se lo dico da avvocato che in genere difende gli imputati, quindi non è che lo dica a cuor leggero, credo che sia importante sanzionare gravemente la condotta di queste persone. Maturano per lo più dentro relazioni sentimentali, crescono all'interno di rapporti malati, certe vendette alimentate dal desiderio di sfigurare l'altro. Ad armarsi di acido sono soprattutto gli uomini, ma all'acido si ricorre anche nelle famiglie ndranghetiste, quando si deve punire la donna che tradisce, in una pericolosa diffusione di uno strumento tanto devastante quanto comune. Ma perché? Da qui ripartiamo nella seconda parte di Storiacce. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presento Storiacce. Ha fatto delle dichiarazioni, ovviamente chiedendo scusa per tutto quello che ha fatto, che mi sembrava un gesto necessario, dovuto e essenziale. Ha voluto chiedere scusa a Pietro e alla sua famiglia, Martina Levato, a quanto racconta il difensore Daniele Barelli, prima che i giudici si ritirassero in camera di consiglio per emettere la sentenza a suo carico. E all'interno del rapporto tra la Bocconiana, ora incinta al settimo mese, e Alexandre Butcher, il broker che è stata concepita l'aggressione a Pietro Barbini, 22 anni, studente, ex della ragazza, che proprio non si capacita ancora, come abbiamo sentito nella prima parte di Storiacce, delle ragioni di questa violenza. Una violenza ripetuta anche in altri casi ricostruiti a ritroso dai poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Milano, guidati da Maria José Falcicchia. a Milano non c'erano stati dei precedenti. Diciamo che noi siamo partiti dall'ultimo caso, quello appunto di Pietro Barbini, e insolitamente rispetto al normale l'indagine ha fatto un'evoluzione indietro nel tempo. Noi avevamo già assicurato, arrestato gli autori in flagranza dell'episodio di Barbini, e poi su questi due nomi siamo riusciti a ricostruire una serie di spostamenti, di movimenti, di episodi, e capire anche che c'era un unico filo conduttore con altri tre casi che avevano riguardato Milano e che erano rimasti insoluti, soprattutto il caso di Luca Savi e di Scarparelli. Siamo arrivati a stabilire se si potesse trattare delle stesse persone che avevano commesso più fatti. Quello che è stato fin qui ricostruito è stata proprio la serialità di questo tipo di aggressione. È il GIP stesso che nell'ultima ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Boeccio Alexander della Martina Levato parla di serialità e li definisce serial killer. Che cosa significa secondo lei una serialità con l'acido? In un colloquio con il psichiatra Raffaele Morelli si parla appunto dell'utilizzo dell'acido perché si vuole cancellare un viso, un volto, un evento, una storia. Era difficile trovare un collegamento tra le vittime e gli autori. Si trattava di collegamenti che nascevano da incontri occasionali, non da amicizie, a parte con Pietro Barbini, quella con Carparelli e con Luca Savi addirittura un errore di persona, quindi non è stato individuato un autentico movente, diciamo così, dietro queste aggressioni. C'è un tentativo di purificazione di contatti precedenti alla relazione tra Levato e Boeccio, che venivano visti come un qualcosa che contaminava questa storia d'amore. La Levato abbia dichiarato che in lei era maturato questo desiderio di purificarsi, di trovare un distacco fisico, di cancellare le persone con cui aveva avuto qualunque tipo di contatto prima di conoscere Boeccio. Avevate trovato qualcosa anche che in qualche modo vi raccontasse di questa, sia della, diciamo, questo legame morboso tra i due, sia anche della volontà di purificazione, così come è stata definita rispetto anche alle storie precedenti? Lettere, scambi di SMS, scambi di messaggi anche con altri social media che attestavano, diciamo, un rapporto molto esclusivo e anche un po' sopra le righe. Purificare e cancellare le tracce di chi c'era prima. È nel significato del volto che, secondo i criminologi, come il professor Stefano Ciappi, che si nasconde la ragione delle aggressioni con l'acido. Il fatto che avvengano all'interno di un rapporto di coppia, di un rapporto, diciamo, ad alta intensità emotiva non è casuale. Credo che da un punto di vista, anche se vogliamo andare a scomodare la mitologia, esista un po' una sorta di relazione bionivoca tra relazione amorosa e volto, diciamo, di cui lo sguardo costituisce una metonimia. Riprendiamo, insomma, il caso anche mitico di Orfeo e di Euridice, no? Lui, Orfeo, può riprendersi l'amore di Euridice a patto che non si volti a guardarla. Volto e amore sono intrinsecamente legati. L'acido rappresenta proprio la volontà estrema di trasfigurare, di sbiadire proprio il volto. L'acido diventa in questo contesto qua una sorta di metafora dell'odio, della rabbia, di un sentimento malato che raggiunge la fase proprio finale del tormento. Trasfigurare con l'acido significa fare in modo che il viso dell'amato venga in qualche modo, non venga più ammirato. Secondo lei può esistere anche un rischio emulazione in questo genere di violenza? Purtroppo nel mondo del crimine e dei delitti segue questa logica perversa dell'emulazione, perché l'acido è facilmente reperibile. Quello che in realtà sogna e spera l'aggressore è lasciare delle tracce indelebili sul corpo dell'amato. Come dire, adesso io sarò sempre parte di te e così te ne ricorderai per sempre. Un pericolo emulazione denunciato anche da Paolo Tosoni, avvocato di Barbini, il ragazzo aggredito. Io questo nella mia arringa l'ho detto, dicendo che il tribunale ha una grossa responsabilità, perché l'acido è uno strumento alla portata di tutti, molto facile da utilizzare, molto più di una pistola piuttosto che di un bastone o di un'aggressione fisica, crea danni molto più gravi che non una ferita, e quindi era importante che si desse un segnale forte perché facesse da deterrente proprio eventuale atto di emulazione. Nascono in altri contesti, ma portano a simili se non peggiori esiti anche le aggressioni con l'acido contro le donne calabresi, quando condannate dalla 'ndrangheta per adulterio, come ci aveva già raccontato Alessandra Cerreti, PM ora a Milano, ma che a Reggio Calabria a lungo ha seguito le inchieste nate da rivolte femminili finite anche nell'acido in modo drammatico. Si è parlato di una regola di eliminazione fisica soltanto per la colpa, tra virgolette, di aver tradito il marito. Quindi l'adulterio già per la 'ndrangheta equivale a condanna a morte nei confronti, si badi bene, della moglie. Ovviamente non vale reciproca per l'uomo. Immaginiamoci in un contesto del genere la collaborazione con l'autorità giudiziaria. Le collaboratrici hanno spiegato che, a differenza che per Cosa Nostra siciliana, per cui era sufficiente per lavare l'onta d'onore che la famiglia d'appartenenza della persona da eliminare desse il consenso all'eliminazione fisica, per la 'ndrangheta si va ben oltre, cioè è necessario, perché l'onore si consideri lavato con il sangue, che l'eliminazione fisica, che è la materiale uccisione, venga fatto per mano del fratello maschio più grande, in assenza del padre che è quasi sempre detenuto. Se quella di Giusy Pesce, come dicevamo prima, è una storia che ha un lieto fine per lei, molte altre invece non l'hanno avuta. Ci sono quelle la cui sorte non è stata ancora mai chiarita, ci sono quelle che sono state ammazzate o trovate agonizzanti e ci sono quelle che sono state fatte suicidare, come ad esempio Maria Concetta Cacciola. Ma ci sono molte altre donne che hanno avuto una fine tragica e analoga, come Domenica Legato, Titta Buttafusco, la dicevamo prima, Maria Teresa Gallucci, oppure ancora indietro nel tempo Angela Costantino a Reggio Calabria. Poi le indagini scoprono che non è un vero suicidio, anche con l'acido muriatico. All'esterno il messaggio è: ecco la fine che fa chi parla. In più, nei confronti di una donna è la peggiore morte, distrugge tutto, distrugge le mucose, distrugge gli organi interni, distrugge il viso. È per questo che ho sempre difficoltà ad accettare che una donna, soprattutto se giovane, decida di darsi questa morte atroce. È molto più semplice salire su una terrazza e buttarsi giù. E come sempre, anche questa volta, nel mito c'è l'origine di quel che succede. Linea dunque alle mitiche storiacce e a Giorgio Ieranò, professore dell'Università di Trento e autore per Sonzogno di libri sulla mitologia, l'ultimo, Gli eroi della guerra di Troia. Mitiche storiacce. Non siamo solo noi in realtà che pensiamo ai miti quando succede un fatto di cronaca, che pensiamo a Medea quando una madre uccide i suoi figli. Succedeva anche nell'Atene del V secolo, una donna cerca di ammazzare un uomo e nel tribunale l'oratore che accusa questa donna dice questa Clitennestra, paragonando la Clitennestra che aveva ucciso suo marito, il grande re Agamennone, in combutta con il suo amante perfido e ingannatore che si chiamava Egisto. Bisogna dire che in genere nel mito le azioni folle, violente, inconsulte, fatte spesso con l'aiuto di veleni o di filtri magici, appartengono alle donne, perché la gelosia irrazionale è innanzitutto femminile. Pensate alla dea Era, che è proprio il prototipo della divinità gelosa e che si scatena tutte le volte che può contro le amanti di suo marito Zeus. È una gelosia che spesso si associa all'invidia e si esercita sulle rivali. Pensate anche a una storia poco nota, alla storia di Scilla, che tutti conosciamo come il mostro marino, che cerca di ghermire Ulisse nell'Odissea. Ebbene, Scilla in origine era una bellissima ragazza, una splendida ninfa, che fu trasformata in un mostro dalla maga Circe, perché la maga Circe era gelosa di lei, perché un giovane preferiva Scilla alla maga. E allora Circe decide di sfigurare Scilla. Spesso la punizione delle divinità avviene con una metamorfosi: si punisce il rivale o si punisce la persona che non ricambia, mutando il suo volto, rendendolo non più guardabile. Anche nel mito, amare è spesso preservare l'immagine, il ritratto dell'amato. Passare all'odio è rimuovere la sua immagine. Forse lo facciamo anche noi banalmente quando strappiamo le fotografie che ci ricordano un amore finito male. Purtroppo c'è chi non si limita a strappare le fotografie. Grazie dunque a Giorgio Iorano. Per riascoltare questa come tutte le altre puntate di Storiacce, il sito è radio24.it. Ma voi cosa pensate delle aggressioni con l'acido? Se vi va, scrivetecelo sulla pagina di Storiacce, sul sito di Radio 24 o sul blog Storiacce. Ci trovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce, mentre su Twitter l'account è Raf Calandra. Ciao a tutti, a presto.